ti teci da una parte e teja tanto tu quanto dall'altra. Ti parchesi 30 un silos per pagarti ti che lasci un stipendio. Na bagascia in sha strada, ogni metro in una cagata. Quando è tutto il problema, chiama Capitan Balajaico. Finalmente è mio primo supereroe senese. È un intrepido e coraggioso, ma in perfetto malinù. Se che ladro che ti insegue, ti curi forte che ci non posso. Se ti paghi una bagascia 10 euro perché ci non posso. Se ti dico che bisogno, non sta a provare vergogna. Le l'unico senese che de giorno è normale, di notte è speciale. E se tu chiami te sei più che nu, che pensa a manco, e arriva in te un momento, le ormo grasso e lento, o capitan magico. Se qualche di un rattella, e sceppa una rissa in ciassa, che da parte fugassa, o capitan magico. Se ti sciacchi qualche sota, nulla è certamente curva d'unca. Se ti casi lungo in terra, non che mai niscina da te na man. Se che un po' d'espurcizia, oppure un'ingiustizia, e ti nuti che a forza de combatte di nemici, e non ti trovi amici. Non state a preoccupare perché uno è sempre attento e pronto, non sta fermo mai un secondo, dall'alba a un tramonto, che è capitan magico. Le verde come un pesto, tu dice mai la parola, in ta bratta non te molla, o capitan magico. Ritz, spruzz, sim, sop, splash, uno, tic, tac, tri, tu. Quando è ci che cosa fa? Quando è ti sei ci che pesci pigia? Quando ti nuti sei cimbelin, chiama un capitan Bajenko. Non sei staccata a terra perché l'empitin pesante, un paio d'elefante, un capitan Bajenko. Tu che fa qui a niente, te sfide un re del mondo, fa gara chi la c'è lungo, un capitan Bajenko. Ti puoi dormire tranquillo, ma te roba le ho seguito, tu che la sempre tu, tu capita magico. Magico.